Sura dei Coreisciti, capitolo 106 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 4 ayat, è scesa dopo la Sura 95, At-Tin. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, per l'unione solidale dei Quraysh, quella loro unione solidale per la carovana dell'inverno e per quella dell'estate, adorino il Signore di questo santuario, il quale ha dato loro cibo proteggendoli dalla fame e ha dato loro sicurezza liberandoli dalla paura.